topic of our Dhamma talk tonight is getting established in the practice of mindfulness. Quindi l'argomento del discorso di questa sera è lo stabilizzarsi nella pratica della consapevolezza. And Satya, yesterday we spoke about Satya, all those Satya, many shortcomings of Satya, the untrained mind. Ieri sera abbiamo parlato di tutti i difetti, diciamo, gli svantaggi di una mente che non è addestrata. And Satya, the mind, or shortcomings of the mind, such as being perturbed by a lack of virtue, and Satya then distracted because of a lack of restraint of the senses. E quindi questi svantaggi comprendevano essere distratto o perturbato, diciamo disturbata per la mancanza di virtù, oppure what was the second dimension? Distracted by a lack of lack of restraint of the senses. Oppure è distratta perché c'è una mancanza di controllo dei sensi. And a mind that is defiled and weakened by the hindrances. Poi una mente che è inquinata e indebolita dagli ostacoli. And Satya, then a mind that is distracted that is inattentive because of a lack of mindfulness. E poi una mente che è disattenta per una mancanza di consapevolezza. Now, today, or today's talk will be in particular for those of you who've joined the retreat yesterday, and as a way of getting you set up in the practice or well established in the practice. Quindi questo discorso è diretto alle persone che sono unite al ritiro ieri ed è per dare un aiuto a stabilizzarsi nella pratica della consapevolezza. And suddenly there's actually so many things that suddenly you need to know and that you need to apply to your meditation practice. So I will try to give you the most important points and always just dwelling on each point briefly, so not going into long explanations. Ci sono tantissime cose che dovreste conoscere, dovreste applicare a questo riguardo, ma quello che farò è trattare solo alcuni dei punti più importanti e di ciascuno parlerò brevemente, quindi non si andrà troppo in profondità. Let us start, and for our meditators who've been here already, this is not new, with the gist of the Satipatthana instructions. Allora cominciamo, e questo non sarà nuovo per quelli che sono già qui, con il dare un senso così generale delle istruzioni del Satipatthana. And those instructions are, here, O meditators, abide contemplating the body as a body, or the body in the body. Allora qui dimora, diciamo, oppure sta il meditante osservando, contemplando il corpo nel corpo o il corpo come corpo. And then this needs to be accompanied and or be ardent in this, and certainly then also clearly comprehending and mindful. E il meditante deve essere ardente, chiaramente comprendente, quindi con una chiara comprensione e consapevole. And then having put away covetousness and grief for the world. Avendo messo da parte la brama e la pena, il dolore per le cose del mondo. And suddenly then the same instructions apply to feelings. And suddenly by feelings we mean pleasant, unpleasant and neutral feelings. E la stessa cosa poi si applica alla sfera delle sensazioni, e qui per sensazioni intendiamo le sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre. And certain, already in this certain context, by feelings are not meant what is commonly termed as emotions. E il Venerabile precisa che in questo ambito non sono comprese, per sensazioni non si intendono quelle che normalmente noi chiamiamo emozioni. Now, the instructions for the contemplation of the mind are as follows, namely, one contemplates the mind as mind, ardent, clearly comprehending and mindful. Quindi le istruzioni che riguardano la contemplazione della mente sono le seguenti. Quindi uno contempla la mente come mente o nella mente, ardente, con la chiara comprensione e consapevole. And so, putting away covetousness and grief for the world. Mettendo da parte la brama e la pena per le cose del mondo. And so, then the same set of instructions then also are to be applied to the fourth and last category of objects or establishment of mindfulness, namely dhammas, dhamma objects. E poi le stesse istruzioni valgono anche per la quarta categoria di quarta contemplazione o quarto fondamento della consapevolezza, che sono gli oggetti del Dhamma. And by Dhamma are meant, as the Buddha explains himself in the Satipatthana Sutta, well, groups of teachings such as the five hindrances, such as the five aggregates, and so on and so forth. E all'interno di questo, di questa categoria dei Dhamma, il Buddha ha indicato dei set, cioè degli insiemi di, come si può dire, di facoltà, diciamo, di stati, che comprendono i cinque ostacoli, i cinque aggregati e via di seguito. No. Even though yesterday's talk was certain or dealt quite a bit with aspects of the mind, being at the beginning of one's certain retreat, one will be mostly, one will have to be mostly mindful of bodily formations. Quindi anche se il discorso di ieri sera era prevalentemente sulla mente, nonostante ciò, all'inizio di un ritiro il meditante sarà più focalizzato sull'osservazione degli oggetti fisici del corpo. And so the reason for this is that they're just grosser and therefore more evident. E il motivo di ciò è che sono più grossolani e quindi più evidenti. But you might protest and you might say, well, but what about my wandering mind? Ma potreste protestare e dire, beh, allora cosa ne dici della mia mente che divaga? And so this is certainly a mental object. E questo è decisamente un oggetto mentale. And so indeed you need to be mindful of this. E effettivamente dovreste esserne consapevoli. And the same thing goes for sloth and torpor that is likely to arise at the beginning of a retreat. E lo stesso vale per la pigrizia e il torpore che facilmente si presenterà all'inizio di un ritiro. So for the most part we will be focusing on the contemplation of bodily formations during the first few days of a retreat, and in doing so we need to have this quality, we need to be ardent. E quindi principalmente all'inizio di un ritiro, i primi giorni di un ritiro, saremo focalizzati sulla contemplazione di questi fenomeni fisici, e per fare ciò abbiamo bisogno di avere questa qualità che è quella dell'ardore, dobbiamo essere ardenti. And certainly ardent certainly here is in the sense of having or possessing a tireless energy. E qui per ardenti si intende il possedere un'energia instancabile. And so to possess a tireless energy, then for what? To get lost in thinking? Allora a cosa servirà questa energia instancabile? Per perderci nei pensieri? And o nel pensare, or ardent energy to go on walks around here. Oppure ci serve questa energia per andare a fare delle camminate qui intorno? So obviously not those. Ovviamente non per questo, non per questi scopi. So tireless energy is more to be directed towards the eradication or the abandoning of the mental defilements. Quindi questa energia instancabile va direzionata verso lo sradicamento, l'eliminazione dei difetti mentali. And certainly the Atapadna Sutta, very short Satna discourse from the Anguttara Nikaya, from the Samyutta Nikaya, says there are three purposes for which one should be ardent. E l'Atapa Sutta, sì, che si trova nel Samyutta Nikaya, indica tre motivi per i quali è necessario essere ardenti. Namely, as we've mentioned, to be ardent in abandoning unwholesome mental states. Quindi essere ardenti nell'abbandonare gli stati mentali non salutari. Then, to be ardent in developing wholesome mental states. Poi essere ardenti per sviluppare stati mentali salutari. And then furthermore, being ardent in enduring difficult bodily sensations. E quindi, come terza cosa, essere ardenti nel tollerare delle sensazioni fisiche difficili. Now, the next term is clearly comprehending. Clearly comprehending refers to a general knowledge or comprehension of what one is actually doing. Il fattore successivo è questa chiara comprensione o il comprendere chiaramente, e questo significa, si riferisce al fatto di conoscere o di sapere esattamente quello che uno sta facendo. And it is interpreted by the commentators as being clear about the benefit and the suitability of an activity. E nei commentari si dice che questo significa anche riconoscere, avere chiaro qual è il beneficio di un'azione e anche la sua, come dire, se è un'azione adatta alla situazione, la sua. And certainly that clear comprehension is not to be mixed up with mindfulness. It is different from mindfulness, and it comes as a form of intuitive wisdom. Questa chiara comprensione non va confusa con la consapevolezza, è una cosa diversa dalla consapevolezza, ed è invece più vicina ed è accompagnata con una saggezza intuitiva. So to give you just one or two very practical examples for clear comprehension. Let's say the next sitting session is coming up according to the schedule, and then the mind goes, it would be nice instead of sitting now to go back to the room and maybe to do some reading some thriller. Allora, per darvi un paio di esempi pratici rispetto a questa chiara comprensione, allora immaginate di dover venire in sala e sedervi per la seduta successiva secondo l'orario, e nella vostra mente voi pensate, non sarebbe meglio però andare in camera a leggere piuttosto che sedermi, magari leggermi un bel giallo, un thriller. So, reading a book may be beneficial if the book is quite okay. But reading a book when one should be sitting instead may not be all that suitable. Quindi leggere un libro potrebbe avere un beneficio se il libro è, come dire, è un buon libro, ma ciononostante, se si legge il libro anziché sedersi in un contesto di ritiro, allora questo sicuramente non è una scelta appropriata. Or to give you another example, so you've come to beautiful Bien di Ciliegi, and there's so much nature around, there's so many birds around, and you happen to be a bird specialist. Oppure, per darvi un altro esempio, venite a Bien di Ciliegi, in questo posto bellissimo, circondati dalla natura, sentite e vedete tanti uccelli, e voi, guarda caso, siete degli specialisti in uccelli. And then you might decide or you might consider to go on a walk in order to determine the different kinds of birds that exist around here instead of sitting in the meditation hall. Potreste decidere, anziché sedervi nella sala di meditazione, di andare a fare un giro nei boschi proprio per identificare tutte le varietà di uccelli presenti qui in questi paraggi. Oh, going for a walk in trying to improve your knowledge about local birds surely is quite maybe quite beneficial, but certainly you've come here not for bird watching, but certainly for the watching of the rising and falling the predominant objects. Allora, il fatto di andare in giro a fare una camminata nei paraggi, anche aumentare la propria conoscenza rispetto alle varietà d'uccelli locali, è sicuramente una portare dei grandi benefici, ma non se siete venuti ad un ritiro di meditazione, per osservare piuttosto l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, anziché di uccelli. So, this much should be enough about clear comprehension, and now let us briefly touch on mindfulness. And maybe to add, there are so many things to be said about mindfulness, that one could easily talk about it for 2-3 hours. But I'm not going to do this. Quindi ci fermiamo qui per quanto riguarda la chiara comprensione. Adesso tratterò invece l'argomento della consapevolezza, e ci sono talmente tante cose da dire rispetto alla consapevolezza che io potrei andare avanti per 2 o 3 ore, ma non lo farò. So, the term, the Pali term, satipatthana means, and this is one possible meaning, clear, firm, and suddenly then steadfast and close establishment of mindfulness on the respective object of observation. Allora, il termine satipatthana, termine Pali, significa una osservazione dell'oggetto che sorge, che ha queste tre caratteristiche: è ferma, è continua ed è ravvicinata. È chiara anche? No, not chiara, no, that was a mistake. Mea culpa. Ah, ok, non chiara, quindi ferma, continua e ravvicinata. The classical definition of mindfulness, and this will be very useful for all of us, is that its characteristic is given as non-superficiality. Quindi la definizione classica della consapevolezza è questa, cioè la sua caratteristica è la non-superficialità. So, let's say pain arises somewhere in the object, and a superficial observation of the pain would be that we just briefly touch the pain, and then we think, oh, I know this already, this just, I'll just label it and briefly observe it, know its nature, finish, basta, and finito, and then I'll go back to the rise and fall. That's your superficial observation. Quindi una osservazione superficiale sarebbe quella del, per esempio, notare il sorgere di un dolore al ginocchio, e toccare brevemente con l'attenzione il dolore, liquidarlo dicendo sì, vabbè, questo lo conosco già, lo etichetto brevemente, sì, ne conosco un pochino la natura, così, però poi torno al mio addome. And so, instead, our mindfulness should possess the quality of sinking into the respective object of observation, and really going to its bottom, and as a result of this thing, one comes to know the different qualities of the object. Invece la nostra consapevolezza dovrebbe avere la qualità dello sprofondare all'interno di un oggetto, di osservarlo proprio fino in fondo, e quindi di conseguenza ne conosceremo bene tutte le qualità. To give you another example, just in the context of mindfulness, at the beginning of a retreat, a meditator may easily observe the rising and falling movement of the abdomen in a superficial manner, and during the interview, make a statement such, well, when the rising occurred, it was rising, and when the falling occurred, it was falling. What a deep observation! Per darvi un altro esempio riguardo a questa consapevolezza superficiale, capita magari i primi giorni di un ritiro che durante il colloquio il meditante riferisca delle sue sensazioni riguardo all'alzarsi e abbassarsi dell'addome e dica sì, quando l'addome si è alzato si stava alzando e quando l'addome si è abbassato si stava abbassando. È un'osservazione molto profonda. Next is certainly the function of that mindfulness which is given as non-forgetfulness or as absence of confusion. E la funzione della consapevolezza è data come l'assenza della dimenticanza o absence of confusion. La non dimenticanza e l'assenza della confusione. And the meaning here is that when a predominant object has arisen and we focus our attention on it, we want to keep our attention on it. We want to keep the object in view and not all of a sudden forget about it and start thinking about something else. Quindi il senso è che quando sorge un oggetto noi vogliamo tenere bene in vista questo oggetto, focalizzare sull'oggetto e non lasciarlo andare o distrarci pensando a qualcos'altro. And so, like in the case of a jet, a jet pilot. A jet plane that flies at extremely high speed, well, the pilot will have to be totally focused on piloting the plane, if not some major accident might happen. È un po' come un pilota di un jet che va ad altissima velocità, beh, questo pilota dovrà stare molto molto attento e essere molto focalizzato sulla guida di questo sul pilotare questo jet, altrimenti potrebbe succedere un grave incidente. And so the same thing could be said for an air traffic controller. Apparently people who work in that field, they have to be totally focused on their job, especially at a very busy airport with many planes landing and taking off, and just one slight mistake and a plane crash could take place. Pure pensate al lavoro di un air traffic controller. Un controllore di volo negli aeroporti, soprattutto negli aeroporti molto affollati, molto trafficati, con molti aerei che decollano e atterrano, beh, sembra che sia una professione che richieda tantissima concentrazione e attenzione, perché basta un piccolo errore che potrebbe esserci un incidente aereo. No, the next aspect is the so-called manifestation of mindfulness, and there are two which are given here. The first one is as a state of confrontation, in other words, confronting the object, and the second one is guardianship or protection. Per quanto riguarda la manifestazione della consapevolezza, ne sono indicati due. Uno è il mettersi a confronto, nel senso di affrontare l'oggetto, mettersi di fronte all'oggetto, e l'altro invece ha la funzione di protezione, di fare da guardia rispetto agli inquinanti mentali. Protection from the mental defilements. And certain confrontation is in a sense of being face to face with the predominant object of observation. Quindi questo, non so se in italiano si dice confronto, mettersi, affrontare probabilmente più in italiano, significa proprio mettersi faccia a faccia con l'oggetto che sta sorgendo in quel momento. And You know, so it's like when talking to another person, you know, then really you have to turn your body towards the other person, look at his or her face directly, and then talk. Then only would it be a meaningful conversation. È proprio come quando parliamo con una persona, allora è necessario metterci faccia a faccia con quella persona, guardarla negli occhi e confrontarla in quel senso, e solo così sarà una conversazione significativa. Now, when, as a meditator, you're really face to face with each and every predominant object that arises, then the result of this over a longer period of time is going to be a certain purity of the mind. Quindi quando come meditante riuscite a mettervi proprio faccia a faccia con gli oggetti che sorgono, allora il risultato di questo sarà una certa purezza della mente. And that purity of mind is the second manifestation of mindfulness, in the sense that in the presence of mindfulness, unwholesome mental states have no chance to arise in the stream of consciousness. E questa purezza è proprio il secondo aspetto della seconda manifestazione della consapevolezza, perché quando perché in presenza della consapevolezza la mente è pura, e inoltre ed è pura perché non è possibile che entrino nel flusso della coscienza i difetti mentali. No, in terms of factors that help to bring about certain mindfulness, two are given. The first one is a strong perception of the respective object, and the other one is given as the four establishments of mindfulness. Per quanto riguarda i fattori che aiutano il sorgere della consapevolezza, anche qui ne sono indicati due. La prima è una forte percezione dell'oggetto che sta sorgendo, e la seconda causa sono i quattro fondamenti della consapevolezza. And certainly, in terms of other qualities that our mindfulness should possess, we have the mindfulness, there should be immediacy in observing an object. Per quanto riguarda le altre qualità che dovrebbe possedere la consapevolezza, allora intanto ci va l'immediatezza nell'osservare l'oggetto che sorge. And the meaning of this is, as soon as a predominant object has arisen, your mindfulness should be with that object from start to finish. E questo significa che non appena l'oggetto predominante sorge, la consapevolezza dovrebbe essere subito addosso, diciamo così, dall'inizio alla fine. And it should not be that some predominant object arises, and then instead of paying attention to it, your mind is lost in maybe debating some issue. Allora, non dovrebbe succedere che come sorge un oggetto voi non gli prestate attenzione perché la mente è persa nel dibattere una certa questione. Now, other qualities that our mindfulness should certainly possess are, it should be not an ordinary type of mindfulness, but extraordinary type of mindfulness. Quindi un'altra qualità che dovrebbe possedere è che la consapevolezza non è una consapevolezza ordinaria, è una consapevolezza straordinaria. And so, oftentimes meditators forget that some superficial type of mindfulness just is not enough. A volte i meditanti si dimenticano che una consapevolezza superficiale non è sufficiente, non è abbastanza. It may lead to a general sense of maybe well-being, but it may not necessarily lead you to wisdom. Potrebbe portare a un certo benessere, ma non necessariamente vi porterà alla saggezza. Now, what else the texts that say, and based on this, the Venerable Sadhu Pandita very much emphasizes that as soon as a predominant object arises, the mind should be rushing towards the object, should be going towards the object. Allora, cosa dicono i testi? Sulla base dei testi, cosa sottolinea il Venerabile Upandita? Beh, appena sorge un oggetto predominante, allora la mente dovrebbe essere immediatamente sull'oggetto, dovrebbe fiondarsi sull'oggetto. Now, other qualities that our mindful observation should possess are namely a detached type of observation. Altre qualità che dovrebbe possedere la consapevolezza è un tipo di consapevolezza distaccata. And not a type of mindfulness where we get totally entangled in the respective object. Quindi non una consapevolezza che ci porta a essere completamente, come dire, imbrigliati, intrappolati nell'oggetto. And suddenly then, what's else? When we observe an object, we try not to interfere with what is going on right now. Un'altra cosa è che quando osserviamo un oggetto cerchiamo di non interferire con ciò che sta avvenendo in questo momento. So sometimes when we observe the rising and falling, it certainly may happen that we've heard from others, well, good practice means when there are plenty of vibrations happening in the rise and fall. And then we observe the rise and fall in a manner that we see plenty of vibrations. Per esempio, quando osserviamo la chakra abbassarsi dell'addome, beh, potremmo aver sentito da qualcuno che una buona osservazione dell'addome implica sensazioni di vibrazioni. Beh, allora noi faremo in modo da sentire le vibrazioni nel nostro addome, anche se non ci sono. And certainly when we are mindful of fitness and predominant objects, then we do this not with a strong goal orientation, but rather being totally focused of what is going on now. E quando ci apprestiamo appunto a essere consapevoli di tutte le sensazioni che sorgono, dovremmo farlo non con un atteggiamento, come dire, che vuole raggiungere una meta o uno scopo. Dobbiamo farlo osservando quello che veramente sta accadendo in questo momento. And so, sometimes what happens is people who have read already a lot of texts, Dhamma texts related to the meditation practice, and so they may have read about impermanence, unsatisfactoriness, and absence of a self, maybe anicca, dukkha, and anatta, and then comes the second day or third day of a retreat, and while observing the rising and falling, they think now it's necessary that I need to see anicca in the rising and falling, and then they see anicca, what they think is anicca. Allora, capita soprattutto con quei meditanti che hanno letto molte cose sulla pratica della meditazione, molti testi, e allora quando si apprestano appunto a fare un ritiro, magari dopo il secondo giorno del ritiro, beh, hanno letto che esistono tre caratteristiche dell'impermanenza, dell'insoddisfazione del non sé, anicca, dukkha e anatta. Allora, nell'osservare l'addome che sale e scende, dice, beh, allora adesso io devo osservare anicca, e effettivamente loro poi riportano di avere osservato anicca pur non sapendo neanche esattamente cosa sia. And so, at the beginning of a retreat, for the most part of the yogis, one will not certainly see anicca as yet, not at least in a proper manner. E all'inizio del ritiro quasi sicuramente nessuno dei meditanti sarà in grado di osservare veramente anicca, cioè non, almeno non nel modo giusto. So when we observe objects, we try to do so without adding anything from our side and without subtracting anything. Quindi quando osserviamo gli oggetti che sorgono, cerchiamo di farlo senza aggiungere nulla da parte nostra e senza togliere nulla. No, Satipatthana instructions, the term putting away covetousness and grief for the world occurred in context of the contemplation of the body, feelings, the mind and dhammas. Quindi in questa descrizione così un po' generale questa Vipassana Sutta, allora si dice che appunto il meditante mette da parte sia la brama per il mondo che il dolore o la pena per le cose del mondo, e questo viene ripetuto per ognuno dei quattro fondamenti, quindi per la contemplazione del corpo, delle sensazioni, della mente e dei dhamma. And so, the meaning here of free or putting away covetousness and grief is that we try not to observe objects certainly with our normal liking disliking modes of the mind. E quindi quello che si intende qui con questo invito a mettere da parte sia la brama che il dolore per le cose del mondo è che noi dovremmo cercare di osservare gli oggetti senza utilizzare la solita modalità della mente, che è quella di provare gradimento o non gradimento per un oggetto. And another word for covetousness would be sensual desire, and another word for grief would be ill will. Un'altra parola per brama può essere il desiderio sensoriale, è un'altra parola per quello che io ho tradotto pena, ma può anche essere tristezza, profonda tristezza o dolore per il mondo. Quindi un sinonimo potrebbe essere una malevolenza. And so, especially at the beginning of a retreat, there may still be a lot of that reactivity of the mind. E soprattutto all'inizio di un ritiro potrebbe esserci molta di questa reattività della mente, si dice. And so, if there's a lot of reactivity towards what certainly is occurring in your practice, then take that reactivity itself as an object of observation, label it accordingly, observe it in a non-reactive manner, in a detached manner, and know its nature. E quindi se si osserva questa reattività della mente rispetto agli oggetti che sorgono, allora occorre prendere questa stessa reattività come un oggetto di contemplazione, etichettarla bene, osservarla in una maniera distaccata e cercare di conoscerne la natura. Maybe this much. And so, now the next aspect, not directly mentioned in the Satipatthana Sutta, however mentioned in other contexts, is the restraint of the senses. Allora, un altro aspetto che non è indicato direttamente nel Satipatthana Sutta, ma viene menzionato in altri contesti, è questa forma di controllo dei sensi. And so, to start with Dhammapada verse 360, that says good is restraint over the eye. E per citare un verso del Dhammapada, il 360, allora lì si dice è bene il controllo dell'occhio. Good is restraint over the ear. Buono è il controllo dell'orecchio. Good is certainly restrained over the nose. Buono è il controllo del rispetto al naso. And certainly then good is restrained over the tongue. E buono è il controllo sulla lingua. And certainly then the next Dhammapada verse states to summarize good is restrained everywhere. E poi per riassumere il verso del Dhammapada dice buono è questo controllo rispetto a tutti questi sensi. So in the sense of restraint of the body, restraint in speech and restraint in thought. Quindi il controllo riferito al corpo, alle azioni del corpo, alla parola e al pensiero. No. Restraint più che controllo è l'astenersi dal, l'astensione forse. Okay. In italiano non suona tanto bene. Yes, about restraint. In Italian you don't have really an equivalent term. So it's more like controlling the senses. Yeah, that's right. It's the same. For a horse holding the reins, reining in. Un altro modo per appunto esprimere questo controllo sui sensi è quando uno tiene il controllo di un cavallo, praticamente tiene le redini di un cavallo, ma in italiano non mi viene proprio una parola, ma prendere le briglie, contenere. Usiamo controllare, contenere forse, contenere. So now this restraint of the senses means that let's say when we do our walking meditation and then some very beautiful bird flies or comes along and then lands somewhere close by, and then and we see this bird in the corner with the corner of our eyes, then we try not to look at it. E quindi questo contenere i sensi significa, per esempio, che se mentre stiamo facendo una camminata davanti a noi si posa un uccello, noi lo vediamo con la coda dell'occhio, però cerchiamo di non portare la nostra attenzione sull'uccello. Or let's say we're doing our walking meditation outside and then we hear the sound of a car driving up driveway, and then our normal reaction would be to turn the head and look at who is coming there. Un altro esempio è sempre durante la camminata, sentiamo magari il rumore di una macchina che sta venendo su per la salita, e la nostra reazione normale sarebbe quella di girare la testa per vedere chi sta arrivando. And so restraint of the senses on retreat means that if there's an intention to look, then we take the intention itself as an object, we label it accordingly as intending to turn the head, intending to look at a certain object, and and then we try, if we're mindful, the intention will disappear and then there's no need to look anymore. Or else, if we miss the intention and the head is turning already, then we might as well be mindful of this process of turning, and then we might be mindful of looking at the object. Allora, nel contesto di un ritiro, questo contenere i sensi significa che se per esempio noi siamo attratti da un suono o da un oggetto, da uno stimolo sensoriale, e ci viene da girare la testa per guardare, allora dovremmo prendere l'intenzione di girare la testa come oggetto di osservazione. Anche lì etichettarlo. E può essere che l'intenzione se ne vada a quel punto, allora si ritorna sull'oggetto primario. Ma se si perde, diciamo così, l'intenzione, l'osservazione dell'intenzione, allora tanto vale continuare il processo del vedere e prendere il processo del vedere come nostro oggetto di osservazione. And so, from a practical point of view, we can make this restraint of the senses or the inclination to look, to hear, and so on, as an object itself. And so, then when some intention comes up, we observe that mindfully, and then we might find, oh, there's another intention wanting the same thing, oh, there's yet another intention, etc. So then we might even discover not just one single intention that is initiating some seeing process, but rather a series of intentions one after another. E quindi da un punto di vista pratico noi potremmo osservare questa tendenza della mente a produrre delle intenzioni e poi seguire le intenzioni o a tendere verso un oggetto piuttosto che l'altro. Allora possiamo utilizzare proprio questo come oggetto di osservazione. E vedremo che la mente tende appunto a creare un'intenzione e poi, avendo svolto, questa intenzione, avendo portato ad un'azione successiva, si trasferisce su un'altra intenzione e poi l'azione che viene dopo e via di seguito. Quindi osserviamo una serie di intenzioni seguite dalle azioni. Yet another aspect related to the restraint of the senses, namely, it happens frequently among meditators that maybe some itch arises, on the arm or on the face, etc. And then gradually we notice that the itch might get even stronger, and then without any restraint whatsoever, the hand goes towards the itch and the scratching takes place. Un altro esempio, un altro caso che capita di frequente ai meditanti è che, per esempio, sorge una sensazione di prurito nel corpo, sul braccio, sul viso. Allora uno osserva questa sensazione, però poi, senza che uno neanche se ne accorga, parte la mano per andare a grattare il punto che... dove c'è il prurito. And so you could take this itself as an object, this intention to move the hand, and the intention to scratch, and then label the intention and observe it carefully, know its nature, and it might happen that suddenly the scratching doesn't even take place. Allora potreste prendere proprio tutto questo processo come oggetto di osservazione, quindi l'intenzione che nasce perché la mano si sposti e vada verso il punto che prude, e il fatto di osservare tutto questo processo potrebbe anche far sì che l'azione non si compia neanche, cioè che la mano non vada neanche poi a grattare. And should you miss to label the preceding intentions to scratch, you might still remember self-discipline, and then out of self-discipline you refuse to scratch. Allora, se uno però si perde, diciamo, questo impulso iniziale dell'intenzione, allora un'altra cosa che si può fare è ricordarsi questa autodisciplina e quindi in qualche modo impedire alla mano di andare a grattare. So in these two ways we can then assure restraint of the body. E in questi due modi possiamo assicurarci questo contenimento, controllo del corpo. No, the second Dhammapada verse says good is restraint in the mind, and what does this actually mean? La seconda parte di questo verso del Dhammapada dice buono è questo contenimento della mente. E cosa significa? So you're sitting in meditation, you're observing the rising and falling, and all of a sudden your mind remembers some joyful event from the past. Siete seduti in meditazione, osservate l'addome che si alza e si abbassa, e improvvisamente nella mente sorge un ricordo di un episodio di gioia del passato. Then the normal reaction would be to go along with the story. E la reazione normale sarebbe quella di seguire questa storia. And so then one thing leads to the next, and we end up in some old memories. E poi una cosa porta all'altra, e noi ci ritroviamo a essere completamente persi nei ricordi. So restraint of the senses, restraint of the mind, here then means that when you notice that the mind is going in a different direction, then immediately you try to catch it, you try to curtail it right then and there. Quindi il controllo della mente significa proprio che appena ci accorgiamo che la mente sta prendendo un'altra direzione, allora cerchiamo di mettergli un limite, di contenerla proprio lì in quell'istante. Now, is this easy to do or not? Questa è una cosa facile da fare oppure no? So. It's difficult. Difficile. So, now, the benefits of this restraint of the senses are worth knowing. I benefici di questo controllo dei sensi vale la pena di conoscerli. So, first of all, they prevent the mind from being disturbed by external objects. Intanto impediscono alla mente di essere disturbata da oggetti esterni. And then, secondly, it all, you know, this restraint of the senses, and it leads to a temporary freedom from mental, you know, defilements, which would certainly arise if we do not practice this restraint of the senses. E in secondo luogo, proteggono la mente dal sorgere dei difetti mentali, che invece sorgerebbero se noi non praticassimo questo controllo dei sensi. And so, when we do restrain our senses, then unwholesome mental states don't have a chance to arise. Quando controlliamo i sensi, allora gli stati mentali non salutari non hanno la possibilità di sorgere. And certainly, so the consequence of a relative purity of the mind, then comes in the form of happiness. E quindi la conseguenza di questa relativa purezza della mente viene sotto forma di una felicità. Scusate, prima ho dimenticato di dire che comunque temporaneamente riusciamo a proteggere la mente dall'inquinante. That inner happiness you will come to appreciate after a couple of days of practice. E questa felicità interiore riuscirete a apprezzarla dopo un paio di giorni di pratica. At first, usually we may perceive this restraint of the senses as a limitation of our freedom. All'inizio noi potremmo percepire questo contenimento dei sensi come una limitazione della nostra libertà. But later on, we, as we come to see its benefits, then we come to appreciate it. Quando però successivamente ne vedremo i benefici, allora cominceremo ad apprezzarla. No, the next aspect that is really worth knowing and applying to one's meditation over and over and over again is that of observing and knowing the presently arisen objects. Quindi un altro aspetto che vale la pena di mettere in pratica durante la nostra meditazione è quello di essere presente e conoscere molto bene l'oggetto che sorge nel momento presente. And so the time factor plays a big role in our meditation practice. Quindi il fattore tempo gioca un ruolo importante nella nostra pratica della meditazione. So, we can distinguish three times, namely past, present and future. Quindi abbiamo tre tempi: il passato, presente e futuro. And so, when it comes to objects of the past, these are uncertain because they have passed already and all we have of them is just a memory of them. Per quanto riguarda gli oggetti del passato, questi sono incerti e tutto ciò che perché sono passati, appunto, tutto ciò che ci rimane di essi è un ricordo dell'oggetto. And certainly, again, when it comes to objects of the future, they are not certain either because they have not arisen yet. And all we have about them is our imagination, what those objects could be like, but there's no guarantee there. Anche gli oggetti del futuro non hanno certezza perché anche in questo caso perché non sono ancora sorti e quindi sono basati solo su una nostra immaginazione di quello che potrebbe esserci, però questo non è garanzia del fatto che effettivamente l'oggetto ci sia. And so, all we have in terms of really certain objects are the objects of the present moment. Quindi gli unici oggetti che abbiamo che ci garantiscono proprio una certezza sono quelli del presente. And suddenly, so, you know, when you notice that your mind is going off into the future or into the past, please, you know, remember to bring it back into the present moment as quickly as possible. Quando vi accorgete che la vostra mente va verso gli oggetti del futuro o del passato, per favore ritornate al momento presente più velocemente possibile. Now there's certain dangers even, you know, that go along, you know, with letting, you know, one's mind stray off into, you know, the future. Ci sono anche dei pericoli nel lasciare che la mente divaghi, you know, verso il futuro, si perda nel futuro. So, you know, if your mind suddenly, you know, goes off, you know, thinking about something, you know, some terrible situation that might happen in the future, but it's not sure yet, you know, then, you know, you end up worrying, you know, for nothing. Se la vostra mente, appunto, come dire, si perde in una situazione futura, per esempio, che riguarda una situazione difficile, di cose che potrebbero succedere, allora il risultato potrebbe essere che vi preoccupate inutilmente. And so if we worry, you know, too much, you know, then it's clearly, you know, a form of suffering. E se ci preoccupiamo troppo, questo è sicuramente una forma di sofferenza. And again, you know, if we allow the mind, you know, to, you know, go off, you know, into the past, and, you know, we then go over, you know, these same old, you know, past, you know, stories over and over and over again, it, you know, may also cause us a lot of suffering. E allo stesso modo, se torniamo sempre a situazioni passate e ripetiamo continuamente le vecchie storie, allora anche questo può causare molta sofferenza. Now, Vipassana meditation can be, you know, described as a gradual process of more and more coming into the present moment. Quindi la meditazione di Vipassana può essere descritta proprio come un processo graduale di un continuo ritorno al momento presente. And as mentioned already, you know, during one of the Dhamma talks a few days ago, coming into the present moment, it means, first of all, you know, one is mindful once per minute. E come abbiamo già detto, quindi entrare nel momento presente significa essere consapevole una volta, once per minute, una volta ogni minuto. No. At first one might think, oh, I'm already pretty much in the present moment. Uno potrebbe pensare, ah, accidente, io sono abbastanza nel momento presente. But gradually one realizes, you know, that, you know, 1 minute is a long period of time, and, you know, there are at least 60 seconds to it. Uno poi gradualmente si accorge che un minuto però è un tempo piuttosto lungo ed è composto da 60 secondi. So, if one is mindful during just 1 second out of that minute, then 59 seconds still remain to be mindful. E quindi se uno è consapevole solo un minuto, un secondo all'interno dei 60, questo significa che ce ne sono 59 in cui non è consapevole. And so, and then finally, if one has managed to, you know, improve one's, you know, coming into or being really in the present, and so, one is, you know, mindful every second, you know, then as one's mindfulness and perception gets even sharper, one realizes, oh, there's, you know, so many objects that one can see within 1 single second. E poi quando uno è ancora più nel momento presente, allora arriverà un punto in cui la sua percezione, la sua consapevolezza si è talmente affinata che dice, ah, ci sono ancora tante cose che si possono osservare all'interno di quel secondo. So, then try to be mindful for all those many microseconds within 1 second. Allora, vi invito a essere consapevole per tutti quei microsecondi che ci sono all'interno di un secondo. How many are there? 60? Quanti sono i microsecondi in un secondo? Sono 60? Who knows? Qualcuno lo sa? I really don't know. Maybe 1,000. 1,000. Yeah, maybe. Yeah. Just from the name. Okay. So, do try from the very beginning of your retreat onwards to become or to be more and more, to come more and more into the present moment. Quindi cercate sin dall'inizio del vostro ritiro di avvicinarvi sempre di più al momento presente. Now, in this connection there's a nice Dhammapada verse, namely 326. In questo contesto c'è un verso del Dhammapada molto interessante, che è il 326. And suddenly the verse is, in the past the mind has wandered as it liked. E dice, nel passato la mente ha divagato come voleva, a suo piacimento. Wherever it liked. Ovunque volesse andare. At its own pleasure. E secondo i propri, come dire, secondo il proprio piacere. Now I will control my mind wisely. Adesso controllerò la mia mente con saggezza. Okay. As a mahout, so an elephant driver, as a mahout with his goat controls an elephant in must. With his goat. With his goat. Yeah. With his goat. Stick. Oh, okay. E quindi controllerò la mia mente così come un guardiano di elefanti controlla un elefantessa in calore. No, just no. Yeah, yeah, it's correct. Yeah, it's correct. And so then the last bastone. The last point for today, and I'll keep it short, is keeping the wandering mind under control. E l'ultimo punto per questo discorso è il mantenere sotto controllo la mente che divaga. And all sorts of thoughts that may be arising, thoughts related to the practice, thoughts relating to the past, to the present, to the future. Potrebbero sorgere un'infinità di pensieri riguardo alla pratica, riguardo al passato, al futuro. Thoughts that are connected with particular mental states. O pensieri collegati con determinati stati mentali. There may be thoughts that turn into a train of thoughts. Sono dei pensieri che poi si traducono in una serie di pensieri, una catena di pensieri. And so on and so forth. E così via. Now, important with regard to the wandering mind is that we catch it quickly and that we do label it accordingly as wandering or thinking or more specifically as we like. Allora, la cosa importante per quanto riguarda la mente che divaga è che ce ne accorgiamo al più presto possibile e la etichettiamo come mente che divaga, oppure pensare, oppure in maniera più specifica. And so then we try not to get entangled in those certain thoughts. E poi cerchiamo di non farci intrappolare da quei pensieri. And so also we try not to act on them. E anche cerchiamo di non agire sulla base dei pensieri. And so then sometimes when we observe some predominant physical object, in the background some thinking, some secondary thinking might be going on, and so in this case we just ignore this and we just keep our attention, all of our attention, on the on that physical object. E quando stiamo osservando un oggetto predominante a livello fisico, può darsi che ci sia un pensiero secondario che avviene. Allora, in questo caso è bene ignorarlo e continuare a osservare l'oggetto fisico che è in primo piano. And so, then with regard the thinking, we may sooner or later also find that it's subject to impermanence, to unsatisfactoriness and absence of a self. Per quanto riguarda il pensiero, potremmo accorgerci, osservandolo, che anch'esso è soggetto all'impermanenza, all'insoddisfazione e al non sé. E quindi è importante anche solo sapere questa cosa, saperlo. And in the case of the extreme thinking, then we might, as other ways of dealing with it, we might give attention to some other sign connected with what is wholesome. E quindi sempre relativamente al pensiero, noi potremmo collegarci con qualche altro segno che ha a che vedere con qualcosa di salutare. So, let's say, if we keep thinking thoughts of hatred, other sign, thoughts connected with what is wholesome, would be thoughts rooted in loving kindness. Ecco, allora se per esempio noi abbiamo dei pensieri che sono collegati con lo stato mentale dell'odio, allora potremmo direzionare la nostra attenzione sui pensieri invece che hanno il segno opposto, cioè radicati nella gentilezza amorevole. And certainly should this not certainly help, then we could briefly examine the danger in those certain thoughts. Se questo non dovesse funzionare, possiamo analizzare brevemente i pericoli insiti in quei particolari pensieri. Should that not help to control the thinking, then we might simply not give attention to them at all and focus our attention on something else. E se anche questo non aiuta a liberarci da questi pensieri, potremmo allora a questo punto ignorare i pensieri e focalizzare la mente su qualcos'altro. And so, the Vitaka Santana Sutta from the Majjhima Nikaya gives yet another suggestion, namely stop the cause that brings about these thoughts. E quindi c'è un altro suggerimento dato da un sutta nel Majjhima Nikaya, che è quello di vedere qual è la causa che provoca questi pensieri. Now, during ordinary mindfulness practice, please don't do this. It kind of sounds a little bit like doing psychotherapy on retreat, and for the most part this is not necessary. But if really a particular or thoughts connected to a particular topic come up again and again, well, in this case maybe, but it's only maybe after 2 or 3 hours of endless thinking. Allora Venerabile vi suggerisce nella pratica ordinaria di consapevolezza però di non adottare questo sistema del cercare la causa dei pensieri, perché si avvicina un po' di più a una sorta di psicoterapia. Però se i pensieri diventano ossessivi e vanno avanti per almeno 2 o 3 ore, allora potrebbe essere utile anche utilizzare questo sistema. And so the last piece of advice that the Buddha has given in this regard is, with teeth clenched and tongue pressed against the roof of the mouth, one beats down, one constrains and crushes mind with mind. Allora, un ultimo consiglio dato dal Buddha rispetto a questo è: con i denti stretti, la lingua che spinge sul palato, One beats down, uno batte praticamente, constrains, si costringe, diciamo, limita, and crushes mind with mind. E quindi è come se schiacciasse mente contro mente. So, with willpower, one crushes those thoughts. Ecco, quindi, in altre parole, con la forza di volontà, uno riesce a schiacciare quei pensieri. Let me conclude today's Satya Dhamma talk by wishing that all these many points that satya were given, namely to practice mindfulness with ardent or with ardent energy, clear comprehension, and satya mindfulness, and then free from liking and disliking of objects, and satya then also keeping, restraining one's satya senses, bringing the mind into the present moment, and then also controlling the wandering mind. With all of this, may you be well established in your practice, and may your practice take off. Allora, a conclusione di questo discorso, venerabile, auguro a tutti voi che grazie a questi spunti che sono stati dati questa sera, e cioè al fatto di mettere sviluppare una consapevolezza, a mettere ardore, chiara comprensione, consapevolezza nella pratica, al contenere i sensi, forse non è coming into the present moment. Poi il fatto di ritornare continuamente al momento presente, il fatto di gestire la mente che divaga, quindi tutte le cose che ha detto questa sera praticamente, che questo possa aiutarvi a progredire nella vostra pratica e che la vostra pratica possa decollare. Voilà, and that's it.